Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. "24 mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 21 minuti inizia la terza parte del 24 mattino di giovedì 16 luglio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Ciao, ciao Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, la rubrica Tutto il mondo del paese questa mattina si concentra su un'inchiesta che il Guardian dedica proprio all'Italia. È la prima puntata di un'inchiesta che riguarda come l'Europa ha reagito al Covid e ci hanno lavorato ben 4 giornalisti. Questa prima puntata perché riguarda l'Italia? Perché raccontano i giornalisti del Guardian il 26 febbraio, quando cominciavano ad aumentare i contagi in Italia, il premier Giuseppe Conte mandò un messaggio di emergenza al sistema di comunicazioni e informazioni dell'Unione Europea, chiedendo aiuto. Ebbene, il Guardian rivela che non ricevette alcuna risposta. E poi tutta l'inchiesta spiega perché questa risposta non ci fu, le lungaggini, la burocrazia. Si conclude però con una nota di ottimismo, vale a dire che da questa brutta esperienza che ci lasciò soli, a dirlo è il Guardian, l'Europa si è data adesso un sistema per cui, se dovessimo malauguratamente tornare nelle stesse situazioni, ebbene, il paese che dovesse chiedere aiuto in Europa questa volta dovrebbe trovare risposta. Si chiude proprio così, sì, l'articolo, perché quando l'Italia chiese aiuto nessuno poteva darglielo, e non poteva darglielo perché non c'era una struttura di emergenza costituita per il Covid, prese tutti alla sprovvista. È così. Magari anche di questo parliamo. Con Stefano Buffagni, buongiorno, vice ministro dello sviluppo economico. Eccoci, Buffagni. Buongiorno a tutti. Iniziamo però da autostrade, che dici Maria? Dai, vai. Vicenda autostrade, caro Buffagni, tutti cantano vittoria, a cominciare da voi, dal Movimento 5 Stelle. Eppure Atlantia in borsa ieri ha fatto registrare un balzo di oltre il 26%. Come mai? Buongiorno a tutti, innanzitutto ancora, ma io non credo che si possa parlare più di tanto di vittoria quando partiamo da una storia che vede protagonisti 43 morti, e una tragedia immane, una cosa inimmaginabile. Quindi credo che per tutto bisogna rispettare i morti. Dopodiché, per quanto riguarda il titolo, lei lo sa meglio di me, vada a guardare l'andamento del titolo negli ultimi 6 mesi, vedrà che stiamo parlando di una fluttuazione di un giorno, perché ovviamente nel momento in cui c'è la potenziale fine di un'indeterminatezza e la potenziale, appunto, quantificazione di una perdita, di una soluzione, questo significa per Atlantia, ovviamente, anche se perde un sacco di miliardi, sapere quanti. E lei sa meglio di me che in borsa la perdita certa è sempre meglio che l'incertezza, e soprattutto chiaramente questo significa che poi il rating non sarà più quello attuale, quindi coi costi di indebitamento. Quindi poi c'è chi strumentalizza questa salita del titolo, tenendo conto poi cosa era successo giorni prima, perché ovviamente con rischio revoca il titolo è crollato. Io credo che le valutazioni richiedano approfondimenti un po' più, diciamo, di spessore, mettiamola così. Mi concedo, ho visto dei commenti terribili, delle speculazioni veramente scandalose, tanto quali. L'unica certezza che ho è che qualsiasi scelta avesse fatto il Movimento 5 Stelle e il governo, avremmo ricevuto una marea di critiche da una parte e dall'altra, quindi alla fine siamo il paese delle critiche e mai della costruzione. Senta Buffagni, e però il, vogliamo chiamarlo rischio, in realtà quello che poi riceveranno i Benetton, la famiglia Benetton contro la quale duramente vi siete scagliati come Movimento 5 Stelle, che in realtà questa operazione alla fine gli vada bene, perché gli incassi di fatto dalla vendita di autostrade, pur tramite il meccanismo dell'aumento di capitale, potrebbero essere consistenti. questa chi l'ha detta? Mi faccia capire, perché se lei legge, noi leggiamo Benetton sui giornali stamattina che dicono il passo indietro 21 anni dopo non avevamo scelta, un'altra cosa che dice fin dal primo istante volevano l'esproprio, mi sembra che non stiano proprio cantando vittoria, e vorrei capire quali sono i miliardi che lei cita, perché se lei me li dice che prenderanno, io le dico, le posso commentare, ma siccome non è così, vorrei che raccontassimo come stanno le cose, anzi le faccio io quindi la quindi domanda. Quindi mi scusi, no, Aspi la cedono gratuitamente, no, Aspi? No, le sto facendo una domanda, di quanti miliardi si sta parlando? Lei mi ha fatto... Glielo chiedo io, a lei il vice ministro dello sviluppo economico, quindi, siete voi che avete gestito l'operazione. Siccome lei mi ha chiesto di commentare i guadagni che avranno i Benetton, che guadagneranno da questa operazione... Ho detto che potrebbero avere, Buffagni. Le sto chiedendo, quindi mi dica qual è l'importo in modo tale che lo commentiamo. Ma c'è una questione di prezzo, ma infatti è da stamattina, stiamo dicendo non che... Non mandi la palla in tribuna, lei sta raddrizzando un tema, quindi chiariamo agli ascoltatori che in questa operazione l'Atlantia e di conseguenza l'azionista di riferimento non prenderà un euro pubblico. Questo lo vogliamo dire e io mi assumo la responsabilità di dirlo, e questo dovete dirlo sempre. Quindi non è vero che è quello che le stavo chiedendo, semplicemente se dall'operazione i Benetton guadagneranno. Punto. Questo è il punto, questa è la lei domanda. Lei ci sta Buffagni. Dicendo che non guadagneranno. Buffagni, ci spieghi perché non guadagneranno? Perché così chiariamo anche i termini di questo accordo, che poi è ancora da perfezionare, ci vorranno mesi per perfezionarlo. Però mettiamo un po' in chiaro come stanno le cose. No, guardi, il tema innanzitutto è che c'è ancora una trattativa in corso, perché al di là appunto degli annunci ci sono una serie di dettagli in discussione e che fanno molta differenza, in particolare sulla famosa richiesta che Atlantia ha fatto di poter garantirsi che se dovesse cadere un altro ponte la revoca avrebbe un costo comunque per loro alto, il che significa avere un importo più alto come valore dell'azienda. Dopodiché l'operazione verrà strutturata ed è stata ipotizzata con un aumento di capitale in Aspi, aumento di capitale necessario guardando gli economics dell'azienda, perché sennò non è in grado di sostenere gli investimenti, e vada a guardare i numeri, non si fidi di certo di un politico. Aumento di capitale che avverrà perché Cassa Depositi e Prestiti ha dei crediti verso Aspi e verso Atlante, stiamo parlando di miliardi, e che quindi, come la norma prevede, verranno utilizzati. Mi dici, non sei in grado di pagarmi, facciamo una trasformazione in capitale, come succede spesso, quindi non prenderanno un euro ma semplicemente si utilizzerà questo tipo di operazione. Dopodiché verrà fatto un aumento di capitale, anche di liquidità, per sostenere gli investimenti. Dopo ci sarà sicuramente la vendita a istituzionali del valore di una parte della quota, però a quel punto, si vedrà qual è lo stato di fatto e si procederà appunto con l'uscita progressiva della famiglia Benetton, perché chiaramente loro hanno una parte di Atlante e di conseguenza l'assegnazione delle quote di Aspi alla società Sintonia verrà fatta appunto con una serie di operazioni. Però questi saranno temi che immagino la società quotata, quando avrà definito, li esporrà. Noi abbiamo dovuto seguire anche tutta una serie di procedure, dato che sono temi price sensitive. Ho letto delle polemiche, per esempio, sui giornali del perché hanno fatto una riunione solo Conte, De Micheli e Gualtieri, ma io vorrei ricordare che quelli erano i player anche comunicati alla Consob, visto che poi tutti giustamente diciamo che bisogna tutelare le aziende quotate, bisogna rispettare le norme. Quindi io sono convinto di una cosa: bisogna riuscire a raccontare le cose giuste in questo paese. Poi le critiche al Movimento 5 Stelle sono sempre all'ordine del giorno ed è giusto, però cerchiamo di informare i cittadini in modo tale che possano criticarci nel merito, consapevole di tutto. E volevate la revoca e non l'avete ottenuta. Per lei cosa vuol dire revoca? La revoca della concessione. Dico, che cos'ha stamattina Buffagni? Abbia pazienza. È una domanda da giornalista, le chiedo. Volevate la revoca, non l'avete ottenuta. Punto. Lei mi risponderà. Per me la revoca, non mi fa una controdomanda ogni volta. Mi risponda. No, però scusi, non è che non le faccio una domanda, però per noi revoca significava dire: signori, è caduto un ponte, chi gestiva questa infrastruttura non è stato in grado di garantire la sicurezza dei cittadini e quindi non può più gestirla. Quindi significava dire: chi gestisce va via, ed è quello che stiamo facendo, lo abbiamo fatto e lo stiamo provando a fare premesso che io le ricordo che il tema revoca non è ancora via dal tavolo, diciamo che si è presa una strada per arrivare a una soluzione dove i Benetton hanno detto ok, il governo ha vinto, noi ce ne andiamo, ci togliamo, ok? Perciò credo che questo perché? Perché sappiamo che ci sono degli azionisti di minoranza, sappiamo che ci sono degli obbligazionisti, sappiamo che ci sono dei dipendenti, sappiamo che ci sono anche dei rischi per lo Stato in caso di ricontenziosi che avrebbero sicuramente fatto felici gli avvocati, e quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione seria dicendo all'azienda: se avete da proporci una soluzione per risolvere questo problema che eviti la revoca, vi ascoltiamo. E loro hanno fatto una proposta, per la verità ne hanno fatte più di una, poi l'hanno corretta piano piano, che secondo noi risolve il problema, cioè garantire la sicurezza dei cittadini, far uscire chi non ha saputo garantire la sicurezza dell'infrastruttura come gestione societaria e abbassare le tariffe. Quindi credo che sia un bellissimo risultato. Poi guardi, io sono certo che il giorno che avessimo fatto la revoca sarebbe stata una tragedia, perché saremmo massacrati per altri 1000 temi. In questi giorni ho letto sui giornali uno che mi diceva 23 miliardi, l'altro 19, l'altro 17, l'altro 16, cioè il tema è complesso. Capisco che giustamente anche noi abbiamo nella strategia comunicativa magari è ceduto in qualcosa, sicuramente, quindi mea culpa. Senta Buffagni, mi scusi, lei prima parlava di azionisti. Una delle cose che sta a cuore, credo, a tutti, incluso il governo, è che gli investimenti internazionali restino. Tra gli azionisti internazionali che sono in autostrade c'è anche la Cina, c'è il fondo Silk and Road. E questa mattina peraltro Gabriele Carrer sulla Verità sottolinea sempre questa relazione, no? Tra la Cina e il Movimento 5 Stelle, cita anche le parole di Paolo Mieli di ieri. Ci dice una parola chiara su quello che secondo lei faranno i soci internazionali, i cinesi, Allianz, adesso che c'è questo accordo per l'uscita della famiglia Benetton, progressiva, diciamo, da autostrade? Io sono convinto che resteranno, perché è un'azienda comunque che, messa a posto, sistemata, ha un valore, ha una redditività, ha del know-how, e quindi sono convinto che resteranno, e immagino che valuteranno anche la possibilità di incrementare la loro quota, perché comunque nel momento in cui sparisce il rischio incertezza è chiaro che gli investitori possono perimetrare la valutazione aziendale, possono fare le loro scelte. Certo, vado a chiedere a loro, sicuramente incamereranno una perdita importante, perché la caduta del ponte rispetto a un'azienda che era considerata risk-free, non so, è sicuramente qualcosa che ha fatto rivedere anche tutti i parametri di valutazione del rischio degli investitori sulle infrastrutture, perché diciamocelo, quanti di noi pensavano che potesse succedere una tragedia di questo genere? Io credo che tutti noi, quando andiamo in giro, siamo tranquilli che passiamo sui ponti, passiamo sotto i ponti e restano, no? Noi siamo alla fine, arriviamo dalla storia dell'impero romano, che ha fatto scuola nel mondo per la capacità di costruire infrastrutture. Quindi, ma il Movimento 5 Stelle è l'ambasciata della Cina in Europa? Ma io credo che la Cina sia entrata in Europa dopo il WTO in maniera molto preponderante, da molti anni prima che addirittura il Movimento 5 Stelle nascesse. Quindi a me non credo che siamo l'ambasciata, credo che il Movimento 5 Stelle a livello di strategia internazionale non vuole perdere rapporti, fermo restando che siamo nell'Alleanza Atlantica, e quindi questo non ci cambia il nostro posizionamento, ma crediamo che l'Italia abbia un ruolo strategico nel Mediterraneo come anche porto dell'intera Europa per l'accesso per esempio delle merci. Lei, credo che da cittadino italiano, condividerà il fatto che bisogna invertire il trend, che spesso le merci vanno a Rotterdam e non scendono a Genova, a Gioia Tauro, non scendono a Trieste, no? Perciò dobbiamo creare un paese che diventi l'hub di collegamento per queste cose, anche perché i cellulari cinesi sono nel mercato da ben prima che noi arrivassimo al governo, con tutte le dinamiche accessorie. Qualsiasi prodotto cinese mi pare che ci sia da parecchi anni, i negozi ci sono da anni, quindi non so, poi io parlo della mia esperienza, non so vostra. Sì, ma ovviamente è diverso l'investimento quando un fondo di Stato cinese fa un investimento in infrastrutture strategiche, Buffagni, naturalmente. Senta, però vorrei capire questo: lei immagina la presenza di CDP in autostrade come transitoria o stabile e in conseguenza di questo è correlato a questo, prelude a una presenza più consistente dello Stato in economia e nelle imprese o è un caso particolare? Ma io credo che CDP, essendo una market unit, farà le sue valutazioni. Io mi auguro che lo Stato sia presente nelle infrastrutture strategiche, garantendo però una public company, perché siccome lo Stato è anche ricco di inefficienze, di storicamente sono stati dei politici che hanno utilizzato delle aziende come poltronifici, come posti per far assumere, io credo che quello sia il modello totalmente da rinnegare, ma uno Stato presente dove garantisce efficienza, garantisce produttività, perché no? Io credo che anche sul tema, per esempio, dell'infrastruttura tecnologica in termini di sistemi di pagamento, piuttosto che di telefonia, di infrastruttura tecnologica sulla connessione internet, lo Stato debba avere dei presidi, e lei sa che c'è la Golden Power, c'è la Golden Share, ci sono dei presidi già normativi, perché no? Come player che sviluppa e accelera, io lo vedo molto positivo. Fermo restando, cioè il futuro potrebbe essere una Golden Power su autostrade, dice lei, Buffagni. No, io mi auguro che rimanga un investimento stabile, anche perché comunque sei un anchor investor, ma non sei di certo il proprietario dell'azienda, no? Quindi io credo che nel nostro visione, credo che lo sappiano i cittadini, c'è lo Stato presente a tutelare le nostre infrastrutture strategiche, ma lo Stato efficiente, non quello del che storicamente ha visto protagonista la storia del nostro paese con assunzioni, interventi ad hoc per far felice il politico di turno, insomma. Credo che sia necessario un giusto equilibrio, ecco, soprattutto in una fase come questa in cui, come ha visto, anche gli altri paesi sono intervenuti a sostenere le aziende, guardi sì, la Germania con quello che ha fatto, che sta facendo, perché è evidente che in un momento in cui il mercato ha delle difficoltà anche per il Covid, lo Stato deve fare la sua parte per garantire la ripartenza economica. Poi però, io sono molto liberale su questo, però non deve essere una, diciamo, una nazionalizzazione di qualsiasi cosa. È chiaro. Maria, un'ultima domanda. Buffagni, vai. Per questo accordo che ha portato a un primo passo della soluzione, mette in crisi il rapporto, per esempio, con un esponente importante del Partito Democratico come la ministra delle Infrastrutture De Micheli? Abbiamo letto di tensioni tra il Movimento 5 Stelle e lei, o rafforza Conte e il governo? Allora, guarda, io credo che questa situazione rafforza sicuramente il presidente Conte per il lavoro che ha fatto e che ha fatto, io me lo conceda, però grazie a tutto il lavoro preparatorio nostro, grazie alle proposte nostre, grazie al nostro tenere la barra dritta e non cedere di un millimetro alle pressioni che vi assicuro sono state mostruose. Per quanto riguarda De Micheli, non è un tema che vi compete a me entrare nelle dinamiche di funzionamento, di equilibri con gli altri partiti. Io rispetto il lavoro del ministro, secondo me ha fatto tante cose buone e mi sembra che su autostrade alla fine anche il suo contributo, al netto di normali dialettica e litigate che esistono, no? Quando si lavora tra persone, il risultato sia anche merito suo. E mi conceda una cosa, nelle potenziale risultato che si sta cercando di raggiungere, anche il fatto di garantire fino alla fine della concessione la gratuità del tratto di Genova come risarcimento alla città, credo sia un grandissimo gesto di attenzione, perché credo che non è stata, secondo me, data abbastanza risalto a questa cosa, ma quella è una città ferita che noi stiamo cercando di aiutare facendo un ponte in meno di 2 anni, quando tutti dicevano è impossibile, non ce la farete, e credo che sia un bel gesto nei confronti appunto di una città che ha sofferto, che ha pagato un conto, dove abbiamo un porto fondamentale per l'economia del nord Italia e anche dell'Italia all'interno dell'Europa. Quindi io, guardi, credo che ci aspetteranno mesi difficili. Credo che questo sia una buona, diciamo, ipotesi di soluzione che si sta trovando, però guardi che abbiamo tanti temi da affrontare, tanti problemi a cui far fronte, tante persone a cui dare risposta. Dobbiamo chiudere, grazie Buffagni. Oh, la prossima con più calma, se riusciamo. Buona giornata. Buona giornata. Sicuramente, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con Giorgia Meloni. Mattino. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, bentornata. Eccoci, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Maria, prego, vai. Buongiorno Giorgia Meloni. Senta, partiamo sempre da autostrade, poi ci sarà anche da parlare d'altro, ovviamente anche di tutte le cose che il governo si trova ad affrontare, per esempio il MES. Ma insomma, sulle autostrade lei era a favore della revoca della concessione alla famiglia Benetton, che comunque uscirà dalla gestione delle autostrade. Quindi come vede questo accordo che è stato raggiunto? Ma guardi, allora, intanto noi dobbiamo dirci che è molto difficile giudicarlo compiutamente, perché che io sappia un documento firmato non c'è, c'è un accordo verbale, c'è quello che io leggo sui giornali, io non sono in grado di stabilire sulla base di... Beh, no, c'è una lettera mandata da Mion. C'è un comunicato stampa. Lettera, Giorgia Meloni, mandata da Mion, che come dire... conferma di accettare le cose richieste. Certo, c'è una lettera, c'è il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, ma io non conosco i dettagli, sto dicendo, mi faccio finire il ragionamento, nel senso, provo a spiegarmi. Quello che noi sappiamo è che Cassa Depositi e Prestiti entra con un aumento di capitale in Aspi. I Benetton dovranno gradualmente uscire da Atlantia vendendo le proprie azioni, giusto? Queste sono le cose che noi sappiamo. Dopodiché questo può voler dire tutto e niente, per esempio può voler dire un buon affare per i Benetton, perché se i Benetton prendono e vendono bene le loro azioni dopo che sono state ristrutturate, questo è addirittura un buon affare per i Benetton. Seconda questione, che è quella che interessa di più a me, siccome per me la questione di Assi, di Atlantia, non è una questione personale verso la famiglia Benetton, ma è un problema di come sono configurate le concessioni autostradali, ok? Perché noi abbiamo un problema che tra l'altro non riguarda solo la concessione di autostrade, per cui queste concessioni si sono in pratica configurate come dei pozzi di petrolio su cui gente che non doveva fare assolutamente nulla era seduta a fare i miliardi su quello che gli italiani avevano costruito con i loro sacrifici. Il punto, secondo me, dirimente rimane questo, cioè in linea del tutto teorica. Se anche oggi Cassa Depositi e Prestiti entra nella gestione di autostrade e piano piano escono i Benetton, e CDP, diciamo, non è una nazionalizzazione ma è un modo di tamponare eventuali, diciamo, no, eccessive difficoltà sul mercato, e domani quando i Benetton hanno venduto le loro azioni e le ha comprate un altro privato, Cassa Depositi e Prestiti esce ma la concessione non è stata modificata, per carità, i Benetton hanno finito di beneficiarne, ma beneficerà qualcun altro dello stesso pozzo di petrolio. Sì, quindi il punto è capire che cosa vuole che sia cambiata. Però. Sì, esatto. L'idea in realtà è che cambi anche la concessione. Questo è il tema che mi interessa, perché alla fine, ripeto, non essendo una questione personale tra lo Stato e la famiglia Benetton, il vero tema è che sicuramente si fa un passo in avanti, perché la presenza di Cassa Depositi e Prestiti, cioè una presenza massiccia dello Stato, può, diciamo, rendere più facile la modifica della concessione in tempi molto rapidi, però quella è la questione che io oggi non sono in grado di giudicare, perché questo, c'è un'idea vaga sul fatto, o diciamo io spero che si voglia, perché tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che questa roba così non può andare avanti, ma poi bisogna capire di che cosa stiamo parlando sul tema della modifica della concessione. In ultimo, vi fermo un attimo perché abbiamo una brevissima pausa e poi torniamo. Mattino. Però io non ho capito una cosa della sua posizione, scusami, Meloni. Scusami Simone, volevo chiarire una cosa con Giorgia Meloni a proposito di quello che Atlantia ha accettato. Tra le cose che ha accettato e che quindi cambieranno, c'è un sistema tariffario dell'autorità dei trasporti che ridurrà i pedaggi, più investimenti e più manutenzioni. Quindi chiunque subentri in futuro dovrà accettare queste nuove condizioni. Era per chiarire. Il problema che noi abbiamo cercato tante volte di sottolineare di queste concessioni è che il problema fondamentale è che sono dei curiosi contratti nei quali in pratica c'è scritto che se uno dei due contraenti non adempie ai suoi obblighi non ci sono conseguenze. Per cui, sempre sulla carta, noi possiamo dire che Aspi farà tutte delle cose bellissime, ma se non si modifica il contratto di concessione, non si stabiliscono, diciamo così, conseguenze stringenti nel caso in cui quegli adempimenti non fossero mantenuti, noi no, purtroppo, diciamo sempre sulla carta, poi magari verrà qualcuno più bravo dei Benetton, non lo so, ma sempre sulla carta secondo me abbiamo un problema. Per questo dico, per carità, io sono, secondo me, ma io ero per la revoca della concessione, va bene. Certo non puoi revocare la concessione in una notte, perché il problema è anche, diciamo, la cialtroneria con la quale secondo me si è mosso il governo, che è stato di fatto fermo alla fine 2 anni, e poi quando è arrivato a non poter più rinviare la decisione, perché c'era appunto il tema della gestione del nuovo ponte, c'era la vicenda della sentenza della Corte Costituzionale, ha dovuto in una notte trovare la soluzione meno peggio, ma secondo me ci si poteva muovere diversamente, diciamo intestando seriamente quel dossier dal giorno dopo del ponte. Meloni, come ne dicevo, c'è una cosa che io non capisco bene della sua posizione. Se la posizione è che il tema è come sono scritte le concessioni e quindi la revisione delle concessioni, in questo caso che bisogno c'era di chiedere la revoca? Intendo questo, perché che ha visto Meloni, mi scusi e chiudo dicendo, ha visto che anche l'Avvocatura dello Stato nel suo parere dell'altro reso pubblico l'altro giorno, quando in realtà era là dal 20 di febbraio a quanto pare, dice guardate, la soluzione più semplice, più comoda, che comporta meno rischi in assoluto è esattamente la revisione della concessione. Guardi, secondo me la concessione andava revocata e messa a bando secondo regole diverse. Si faceva una gara nuova, si riscrivono le regole, si fa una gara, si consente alle persone di partecipare a una gara e chi è più bravo vince, perché così dovrebbe funzionare in un sistema, diciamo, qui stiamo parlando della gestione di un'infrastruttura strategica, ma è un dettaglio, però mancato. Consentendo alla stessa ASPI di partecipare, certo, di nuovo? Poteva partecipare la stessa ASPI, ma secondo regole completamente nuove, perché qui è lavorare, diciamo, su una concessione che è diventata un monopolio naturale, dove ci fanno quasi quasi la concessione a noi, scusate il gioco di parole, di modificare le concessioni. Diciamo, secondo me lo Stato si mette in una posizione di sudditanza che secondo me è irragionevole, oltretutto per il tipo di concessione alla quale parliamo, cioè di un'infrastruttura strategica, di un'infrastruttura totalmente costruita dal pubblico, quindi dagli italiani, che è di fatto un monopolio e che però abbiamo regalato in mano a un privato. Regole scritte, se non sbaglio, da voi quando eravate al governo, però, Meloni. Beh, insomma, le regole scritte negli anni 90, Spezia, no? Adesso non giochiamo. Poi, per carità, le responsabilità lì sono trasversali, però obiettivamente sono regole che vanno avanti da molto prima. Beh, comunque c'era Berlusconi al governo quando la concessione fu rinnovata ai Benetton. Quando fu rivista, non quando iniziò. C'è stato il centro-sinistra, ci sono stati praticamente. Io curiosamente facevo il ministro dei giovani, quindi non potevo modificare io la concessione autostradale. Se domani avrò Però era in maggioranza. Però era in maggioranza comunque. Sì, facevo il ministro dei giovani, per cui sa, non era il mio ministero, quindi diciamo forse adesso non avevo esattamente adesso la forza per modificare la concessione autostradale. Sì. Magari domani siete all'opposizione, Meloni, rinfacciarmi quello che non ho fatto a 28 anni, potrò misurarmi quando ho il potere per fare le cose. Adesso che siete all'opposizione, il MES è uno dei temi che potrebbero creare nuovi problemi al governo. C'è il Consiglio importantissimo, nel quale forse non si deciderà una cosa definitiva, ma insomma noi stiamo guardando con attenzione a quello che farete voi come opposizione sul MES, perché quei soldi obiettivamente servono anche molto rapidamente, perché gli altri, quelli del Recovery Fund, arriveranno, se va bene, a gennaio. Ci spiega perché terrete questo punto, cioè il no al MES? Su questo la pensate come il Movimento 5 Stelle, mi pare? Guarda, teniamo il no al MES perché non c'è alcuna ragione economica, eccetera. Nel senso che il MES è un prestito, tra l'altro sono soldi nostri che in parte si vengono riprestati. Non è vero che noi, se non prendiamo quei soldi dal MES, non li possiamo prendere altrove, cioè sui mercati. Si dice che la ragione per la quale alla fine questo MES conviene tanto è che, avendo dei tassi di interesse basso, ci conviene, perché noi risparmiamo circa 500 milioni, apro chiudo parentesi, su una spesa pubblica italiana di 900 miliardi di euro, chiudo parentesi, di tassi di interesse. Il che non è vero, nel senso che è vero che i tassi di interesse sono bassi, però anche che il MES è un prestito senior, significa che va rimborsato prima dei titoli di Stato, significa che questo ragionevolmente, secondo economisti diciamo autorevole, non secondo Giorgia Meloni, produce automaticamente un aumento dei tassi di interesse sui suoi titoli di Stato, per cui alla fine il saldo anche di questo presunto guadagno potrebbe essere assolutamente negativo. In tutto questo, purtroppo, il corrispettivo di provare a risparmiare 500 milioni con una spesa pubblica di 900 miliardi, soprattutto manco risparmiarli, sì, è che noi di fatto dovremmo farci commissariare la nostra politica economica. Perché che se ne dica, per chi conosce vagamente le carte, accade che il MES sia un trattato internazionale che non si modifica con le lettere di Gentiloni, e in ogni caso anche la famosa lettera di Gentiloni e Lewandowski prevede la cosiddetta sorveglianza rafforzata del post-programma. La sorveglianza post-programma significa che quando tu non hai restituito il 75% di quel debito, sei sottoposto al controllo della Commissione Europea. Sì, il controllo che quei soldi siano spesi per, appunto, per la sanità, Meloni. No, scusi, perché l'articolo 14 del trattato dice una cosa molto precisa. Non riguarda il controllo della spesa sanitaria, riguarda il controllo della politica economica. Cioè io ti do dei soldi tuoi e in cambio pretendo di avere voce in capitolo su quello che tu farai con dei tuoi conti pubblici. Ora, scusi, posso farle io una domanda? Anche lei, oggi è la giornata, anche Buffagni prima. No, ma se volete mi rispondete, ma faccio una domanda retorica, e ciascuno si interroga, no, poi non mi dovete rispondere, se volete lo fate. Ma anche perché non abbiamo tempo, perché purtroppo. Se questo MES è così vantaggioso per noi, i cosiddetti paesi frugali, cioè l'Olanda e compagnia cantante, quelli che dicono che noi stiamo a prendere il sole mentre loro lavorano, dicono che il nostro accesso al MES è una condizione sine qua non per ottenere un accordo vantaggioso sul recovery fund. Cioè, se questo MES è così vantaggioso, come perché non si fidano di come li spenderemo, mi viene da dire, Meloni. No, può darsi che sia anche questo. Meloni, dobbiamo avere... Lasciamo in sospeso la sua domanda retorica, ci torneremo su questo tema del MES, anche perché in questo fine settimana c'è il Consiglio Europeo, quindi a lunedì, martedì, e ne abbiamo. Grazie Giorgia Meloni, buona giornata. Grazie, buona giornata. Maria, domani alle 8:20. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.